Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Australia con Miriam De Filippi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Vuoi sentire una storia? Che storia? C'è una ragazza. E c'è una specie di uomo magico. E poi c'è un forte... come una tempesta. E questa storia si svolge in una... in una terra lontana. Quanti di voi hanno capito di che film si tratta? A parlare è Nicole Kidman. Forse questo può essere d'aiuto. Comunque, la terra lontana dove si svolge la storia della pellicola di Baz Luhrmann è l'Australia. E oggi è là che andremo. Nome: Commonwealth dell'Australia. Forma di governo: monarchia parlamentare federale. Capitale: Canberra. Ma la città più popolosa è Sydney, seguita da Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide. Confini: il paese si trova nell'emisfero australe ed è circondato dagli oceani Indiano a ovest e sud e Pacifico a est. Superficie: più di 7 milioni di chilometri quadrati. È il sesto paese nel mondo per estensione. L'Australia è formata dal mainland, ossia la parte continentale o l'isola principale, la Tasmania e altre isole minori dette terre remote, quali le isole Cocos e Keeling, l'isola Christmas o isola del Natale, l'isola Norfolk, l'isola di Lord Howe, l'isola Macquarie, ritenuta parte della Tasmania, e l'isola Heard. Popolazione 122 milioni di abitanti circa. Lingua: inglese come lingua ufficiale, più alcune lingue aborigene. Clima: il clima dell'Australia varia notevolmente dal nord al sud, passando dal tropicale umido al temperato, tipico delle regioni del sud. Nella regione tropicale, che occupa il 40% della superficie, le piogge si concentrano nella stagione estiva, tra febbraio e marzo. Nel resto dell'anno sono frequenti gli alisei, che soffiano da sud-est creando un clima secco e caldo. I deserti australiani, che coprono l'area centrale del mainland, hanno un clima caldo, con scarse precipitazioni. Le regioni temperate calde hanno quattro stagioni, con temperature che oscillano fra i 21 gradi di gennaio-febbraio e i 10 gradi di luglio. Valuta: dollaro australiano. Il mio amore per l'Australia è iniziato una dozzina di anni fa, quando siamo andati con mio marito, banalmente quasi, perché lo fanno in tanti, in viaggio di nozze. Mi aveva sempre attratto e poter viaggiare, cominciare così a fare la prima conoscenza con il continente rosso, perché la caratteristica più bella, più forte che ci si porta dentro quando anche poi si ritorna, è la terra rossa dell'Outback. Questa terra rossa che abbiamo appunto visitato, anche se soltanto per un mesetto e passando anche molto tempo in aereo, mi è rimasta così tanto dentro che per anni abbiamo coltivato un grande sogno, quello di tornarci, ma di tornarci dandoci tempi diversi e anche un mezzo diverso per attraversarlo. Tempi diversi perché siamo riusciti a ritagliarci 6 mesi, sia io sia mio marito siamo riusciti a prenderci 6 mesi sabbatici, e abbiamo deciso di attraversare l'Australia come fanno spesso gli australiani, cioè in camper, perché il camper ti permette di regolare le distanze come tu le preferisci, di fermarti dove vuoi e anche di raggiungere quei posti dell'outback che sono più inesplorati e anche fuori da tante rotte turistiche, e mette anche fortemente a prova la tua capacità organizzativa, perché viaggiare in camper in Europa è un'esperienza che peraltro io non ho mai fatto, quindi l'Australia mi ha anche svezzata da questo punto di vista. Viaggiare in camper in Australia o comunque anche in auto, laddove finiscono le città e inizia la meraviglia ma anche la sfida del deserto, è una dura prova. Infatti la prima cosa, se io devo parlare dell'Australia, alla quale penso, sono gli spazi. A parlare è Miriam De Filippi e io sono partita con lei alla scoperta del nuovissimo continente tra la sua terra rossa e i suoi spazi sterminati. Tutto questo in un viaggio in camper. Australia, coste alte, mare aperto. La scelta del camper ha i suoi pro e i suoi contro, soprattutto qui, come precisa Miriam. E visto che siamo solo all'inizio del viaggio, è bene sapere quello che c'è da sapere. Gli spazi immensi, sia in senso letterale sia in senso metaforico. E questi spazi immensi ti impongono di non dimenticare mai, per esempio, di fare benzina, che può sembrare, detto così, una banalità, ma se tu non tieni costantemente presente che poi per 200-300 chilometri non incontrerai più nulla, e quando dico nulla è veramente il nulla più assoluto, se non quel nulla meraviglioso popolato di spinifex e di termitai e magari di qualche lapide che ricorda i primi esploratori che fin laggiù sono arrivati ma non sono mai tornati, tu rischi davvero di restare a secco. Quindi mai dimenticare l'acqua e mai dimenticare appunto di fermarsi in una roadhouse. Poche parole e siamo già in Australia. Una fra tutte, Spinifex. Solo il nome fa capire di che energia è capace questa pianta. E a seguire, Roadhouse. Sono parte fondamentale del paesaggio per nulla urbanizzato dell'outback australiano. Sono delle strutture in cui in pochi metri quadrati si concentra di tutto. C'è la mitica pompa di benzina, c'è il motel, hotel, punto d'appoggio per i camper, bar, ristorante, e devo dire che sono molto poco popolate, cioè ci sono persone in transito, ci sono baristi che sembrano surreali per precipitati laggiù da un mondo da chissà dove, e però hanno, quindi sono poco, hanno poche persone ma una forte personalità, anche perché chi transita da quelle parti crea subito un rapporto di grande affetto con queste roadhouse. Sono segno della civilizzazione e anche quelle che ti risolvono poi i bisogni di base, quindi la benzina, trovi il bagno, trovi qualcuno che cucini qualcosa per te. E quindi le roadhouse sono state forse le tappe fondamentali del nostro viaggio attraverso l'Australia, anche perché abbiamo percorso 23.000 chilometri che possono sembrare tanti, anche se poi spalmati in 5 mesi e mezzo ce la si fa. Tutti questi chilometri raccontati nell'arco di una puntata, ce la faremo? A giudicare dalla precisione dei racconti di Miriam, direi di sì. I came from the dream time, from the dusty red soil plains. I am the ancient heart, the keeper of the flame. I stood upon the rocky shores, I watched the tall ships come. For 40,000 years I've been the first Australian. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Australia, con Miriam De Filippi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono nell'isola più grande del mondo, che è anche un continente, e che è l'unico continente ad essere anche una nazione. E tutto questo lo sto scoprendo con Miriam De Filippi, che mi ha caricata su un camper per mostrarmi questi spazi infiniti che fanno l'Australia. Io devo dire che di questi 23.000 chilometri non c'è stato un metro uguale all'altro, perché la parte interna dell'Australia, che è quella poi più disabitata totalmente, è vuota ma piena di cose, ed è piena di emozioni, ed è piena di spiritualità. Non c'è una montagnola, perché non hanno vere montagne, sono tutte spianate da venti millenari che assomiglia ad un'altra. Anche le combinazioni dello spinifex e dei piccoli arbusti che incontri sono ogni volta diversi, quasi che un artista si fosse così ingegnato a creare delle opere d'arte, così, delle arborescenze sempre nuove, ma anche i termitai, hanno delle forme, delle fogge che catturano lo sguardo e ti lasciano incantate, ma anche i colori del deserto variano, c'è sempre questo rosso, questo anche più che ocra, questo rosso, ma a seconda dell'orario del giorno in cui tu passi le gradazioni cromatiche sono diverse. E quindi devo dire che l'Australia ti sorprende sempre. Oltre ad un'altra cosa non va dimenticata, che l'Australia è una terra gigantesca, noi la consideriamo, sì, la vediamo, è collocata lì dall'altra parte del mondo, in fondo a qualche carta geografica, è grande quasi come gli Stati Uniti, e quindi sono dimensioni notevoli da percorrere. Beh, 23.000 chilometri sono davvero tanti. Ma il camper è una piccola casa viaggiante e se la compagnia è bella, come in questo caso, e se dai finestrini si vedono delle vere meraviglie, non c'è di che preoccuparsi. Ha una ricchezza, quindi anche una varietà di territorio e anche climatica notevole. Infatti nel viaggio che noi abbiamo fatto, che poi si è dipanato attraverso 5 mesi e mezzo, abbiamo così attraversato i climi tropicali del nord, perché in Australia è tutto ribaltato rispetto a noi, scendendo invece verso sud abbiamo incontrato un clima più mite, anche perché abbiamo vissuto l'estate australiana. Più mite però significa che qualche volta di sera ci si metteva il giacchino addosso, soprattutto in Tasmania, perché la Tasmania è staccata dall'Australia ormai da qualche migliaio d'anni e ne fa parte politicamente, ma ormai non più né dal punto di vista geologico né dal punto di vista, diciamo, proprio anche emotivo dei suoi abitanti. È come se fosse veramente qualche cosa a parte, però fa parte dell'Australia. Noi abbiamo avuto la fortuna di visitarla in estate e anche la Tasmania è stata veramente sorprendente, un po' perché quando siamo arrivati era nella sua stagione migliore, c'era un tripudio di verde nelle sue foreste, e se io posso ricordare la Tasmania anche solo per un particolare, sono i suoi sapori. Bella la Tasmania, penso a Anthony Trollope e alla sua sagacia tutta inglese nel descrivere questa parte dell'Australia. È risaputo persino nelle colonie rivali che delle colonie australiane la Tasmania è la più bella. Si può dire che nella piccola isola, dovunque tu vada, il paesaggio che l'occhio incontra è sempre piacevole. E il clima della Tasmania è molto più gradevole di quello di qualsiasi altra parte del continente. Ogni cosa in Tasmania è più inglese dell'Inghilterra stessa. I suoi sapori certamente sono accattivanti, la sua natura pure, visto che quasi il 40% del suo territorio fa parte di riserve, parchi naturali o aree protette. Ma dal tono di Miriam pare ci sia dell'altro. In Tasmania tu vedi gli australiani in pellegrinaggio. Pellegrinaggio perché? Un pellegrinaggio molto particolare. Loro fanno dei veri e propri pellegrinaggi, non uso questo termine esagerando, nelle prigioni. Io ricordo che tutti gli australiani veramente che abbiamo incontrato sul continente ci dicevano: se andate in Tasmania assolutamente dovete visitare Port Arthur. Io dicevo: ma cosa diavolo ci sarà in questa Port Arthur? Port Arthur è una minuscola, ma neanche cittadina, un villaggio, un paesotto nel sud della Tasmania, dove per l'unica volta in 6 mesi australiani mi sono trovata a fare la coda. E la coda perché? Perché a Port Arthur c'è una delle colonie penali più terribili del Regno di Sua Maestà, cioè i galeotti che arrivavano dalla Gran Bretagna e che non piacevano neppure a Sydney, cioè erano così terribili che anche a Sydney non li volevano tenere, li mandavano a Port Arthur. Quindi erano praticamente nell'isola dell'isola, cioè da lì proprio non uscivano. in una colonia penale di grandi dimensioni, dove non soltanto hanno vissuto molti galeotti, molti dei quali magari con colpe come dire, presunte, ma anche gli ufficiali di guardia, quindi una struttura molto grande. E perché gli australiani vanno in pellegrinaggio a Port Arthur? Per cercare le loro radici, cioè loro vanno a cercare traccia, documenti di loro parenti. Certo, l'Australia è nata come colonia penale per risolvere il problema del sovraffollamento delle prigioni in Inghilterra. La prima flotta di 11 navi cariche di detenuti arriva il 26 gennaio del 1788 nella baia di Sydney e alla fine della deportazione nel 1868 arriveranno ben 160.000 detenuti tra uomini e donne. Questo in qualche modo spiega il perché del pellegrinaggio. Quindi io quando sono stata in Tasmania immaginavo, perché qualcosa avevo leggiucchiato, di trovare una terra bella, molto affascinante dal punto di vista naturalistico, e lo è anche perché ha gli animali più straordinari, c'è anche il famoso diavolo della Tasmania, e quindi mi ha colpito per i suoi sapori e mi ha colpita perché è lo scrigno in qualche modo della memoria storica australiana in senso assoluto. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Australia con Miriam De Filippi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. A bordo di un camper sto macinando chilometri e chilometri nel nuovissimo continente in compagnia di Miriam De Filippi. Dai finestrini passano i deserti dell'Australia, costellati di spinifex e termitai. Siamo arrivati in Tasmania, una visita che ci ha messo in contatto con le origini di questa terra, le sue origini più recenti, si intende, che risalgono all'invasione della Gran Bretagna e all'arrivo dei detenuti inglesi. Questo non significa però che l'Australia sia un vuoto totale rispetto al passato, anzi, il suo passato più forte, anche se ha dei codici che noi fatichiamo ad interpretare, è il passato dell'Outback, quello aborigeno. Di aborigeni ne abbiamo incontrati, siamo andati anche a visitare nel Northern Territory Mananialu. Il Northern Territory è il vero Outback, cuore rosso dell'Australia, grande quasi quanto l'Italia, la Francia e la Spagna messe insieme, ed è quanto di più suggestivo ci sia. Visitare un villaggio aborigeno, poi? Anche perché la popolazione aborigena ha un fortissimo legame spirituale con questa terra che li ospita da oltre 50.000 anni. In questo villaggio abbiamo trascorso qualche ora con diciamo, la guida anche spirituale del gruppo, un signore che aveva un doppio nome, si chiamava John all'inglese, perché ovviamente sono cittadini australiani e quindi hanno tutta la documentazione australiana, ma Nagi nella sua lingua. Ci ha portato con lui in un diciamo bosco, anche se era rinsecchito all'epoca dell'Outback, e all'inizio io e mio marito così non riuscivamo a entrare in sintonia con lui, mentre il bambino che viaggiava con noi è entrato immediatamente in sintonia con questo signore, perché siamo arrivati al villaggio e noi, da bravi europei scalpitanti che pagano il ticket e quindi vogliono immediatamente il prodotto fruibile, siamo stati fatti accomodare sotto un gigantesco mango e si stava lì seduti in silenzio. Allora io scalpitavo, mio marito si guardava attorno e diceva: boh, passiamo la giornata qua, sensazione un po' straniante. Mio figlio perfettamente a suo agio, perché? Perché, come succede spesso ai bambini che sono giustamente più animaleschi, doveva un po' fiutare il territorio e captare gli spiriti che stavano attorno a noi. Così Nagi non ci voleva mettere in imbarazzo, lui non ci squadrava in modo supponente, ma anche lui voleva creare la giusta atmosfera. Ma vediamo che cosa ci riserva questa nuova avventura con Nagi. Quando ha capito che finalmente ci siamo rilassati ed eravamo pronti ad attraversare un pezzo della sua terra, ci ha guidati tra piante che, viste prima, ci sembravano rinsecchite e invece si sono dimostrate miracolose, perché da alcuni rami riuscivano a ricavare un didgeridoo, da alcune bacche che io non avrei neanche tirato fuori dal terreno uscivano i colori che poi vengono trasposti nella pittura aborigena. Poi c'erano delle foglie che utilizzavano per scopi curativi. Si è dischiuso un mondo. Siccome però lui stesso ci ha spiegato che parte dei terreni vengono giustamente così bruciati, no? Poi, di modo che poi le colture e le stesse piante si ripetano, mio marito gli ha chiesto: ma lei come fa a muoversi qui nel momento in cui perde i suoi punti di riferimento, perché bruciato, il terreno bruciato, comunque perdi gli alberi e gli altri punti di riferimento? Questa domanda nasce anche dallo spirito europeo, per cui abbiamo il navigatore, abbiamo il BlackBerry per l'ennesima prova conferma, e lui con grande calma e saggezza ci ha risposto: la mia testa è una mappa. Con la semplice frase «la mia testa è una mappa», Nagi ci fa capire quanto la propria casa sia uno specchio dell'anima. È stata una risposta bellissima, bellissima. L'ha detto in parte con la tristezza, in parte anche con l'orgoglio e la stima, quasi una mappa genetica però, perché se quella è comunque la terra di suo padre, di suo nonno, gliel'hanno trasmessa, e il modo in cui lui in quella terra si muove, il modo in cui la guarda, veramente ti fa capire la storia antica e anche proprio la spiritualità immensa dell'Outback che incontri anche attraversandolo. E lui sta cercando, dico Nagi, di trasmettere questo a suo figlio. Mi ha fatto una grande tenerezza vedere come lui stia cercando di trasmettere la ricchezza, la bellezza della cultura aborigena. E a proposito di figli, visto che sul camper c'è anche il bimbo di Miriam, che ha solo 5 anni, come si può distrarlo dalla noia dei lunghi spostamenti? Le risorse di una mamma sono infinite, ed ecco infatti che arriva un gioco. Era una specie di gara e dicevamo: vediamo per i prossimi 100 chilometri uno di noi conta quanti animali vede. Quindi poteva essere il canguro di passaggio, perché anche altro elemento fondamentale: non incontri nessuno, però c'è il canguro che ti può tagliare la strada. Canguro, la mucca o anche un'echidna. Io ricordo che una volta nel Victoria, quindi nel sud dell'Australia, un'echidna ci ha tagliato la strada. È molto, un animale molto raro da vedere, l'abbiamo vista, abbiamo rischiato di stritolarla sotto i nostri pneumatici, si è fermata, e ricordo ancora questi aculei che si sono alzati con veramente garbo, ma anche con estrema calma, attraversato la strada, giusto il tempo di farci fare uno scatto che immortalasse questo incontro davvero speciale. Quindi puoi incontrare l'echidna, puoi incontrare canguri sicuramente tanti, anche non so, appunto la mucca di passaggio, perché ci sono mandrie che escono dalle staccionate, e poi vabbè, qualche uccello anche di passaggio, puoi vedere, che so io, anche iguane, cioè capita a seconda della zona dell'Australia che stai attraversando. qualcuno conta gli animali, qualcuno le auto e qualcuno i road train, che, mi spiega Miriam, sono una caratteristica dell'Australia. I road train sono un altro elemento fondamentale del paesaggio dell'outback australiano. Sono dei camion che trasportano viveri, trasportano anche pezzi di abitazione, li abbiamo visti con tutto, e sono i treni del deserto. Sono lunghi 53 metri, ci sono molti cartelli che ti avvertono, attenzione, qui transitano i road train, e devo dire che essere superati da un road train è un'esperienza anche qui, ti pare di essere catapultato in un altro mondo, ma soprattutto superare un road train è un'altra esperienza notevole, perché 53 metri sono poco proprio tanti. E questi road train sono strepitosi, perché tu li vedi, ce ne sono parecchi, anche se stiamo parlando di numeri bassi, ma nell'outback, appena ti avvicini ai centri urbani è come se loro svanissero nel nulla, cioè svolgono un ruolo fondamentale per portare viveri e non soltanto viveri, però poi scompaiono come se facessero parte di quel paesaggio surreale ma realissimo quando ci sei dentro dell'outback australiano. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, compagni di viaggio, compagni di viaggio. In Australia con Miriam De Filippi. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. 23.000 chilometri in Australia su un camper nell'arco di una chiacchierata con Miriam De Filippi. Sembra un record, ma dopo esserci distratti con suo figlio a contare gli animali, le auto e i lunghissimi road train che incontravamo nella desolazione degli outback, siamo arrivati quasi alla fine. L'esperienza del villaggio aborigeno e l'incontro con Nagi e la sua filosofia di vita hanno fatto il resto. Lasciare un segno non è cosa difficile, sia negli adulti che nei bambini. È stata un'esperienza per lui pesante sicuramente, ma si porta dentro molto, molto dell'Australia. Infatti ricordo che siamo tornati, siamo andati a trovare degli amici, una specie così di laghetto vicino a casa, c'erano queste canne di bambù, e la prima cosa che mio figlio disse è stata: ah, che bello, guarda quanti didgeridoo potremmo fare, no? Che non è esattamente quello che ti aspetti da un bambino italiano, che si immagini il didgeridoo, però è stato permeato, no, di uno sguardo sul mondo molto particolare. E ora siamo arrivati ai consigli su cosa non perdersi. E se di questo viaggio lungo e strepitoso che abbiamo fatto, e che io consiglio a tutti quanti veramente perché è un'esperienza molto arricchente, dovessi dare così uno spunto, cioè qualche luogo magico dal mio punto di vista, sicuramente direi in Western Australia e in modo particolare la penisola Perron, che dà sulla Shark Bay, perché è un concentrato di meraviglie. Beh, Shark Bay, già il nome fa capire che la concentrazione di meraviglie ha una pinna inquietante e qualche fila di denti di troppo. Superato anche lo shock di fare il bagno in mezzo agli squali, siamo pronti per gustarci tutto quello che fa da cornice a questo quadro stupendo. C'è questa Shark Bay che, come dice il nome, è la baia degli squali. Ma un nome non a caso, cioè loro, gli australiani, sono abituati a convivere con animali di fogge e pericolosità anche notevoli. Ricordo infatti che proprio da quelle parti io andai all'ufficio del turismo, che c'è dovunque, cioè un tourist office dovunque, veramente anche nel posto più sperduto, a chiedere informazioni sugli squali per fare un eventuale bagno. E la risposta che mi venne data, ed è una risposta tipicamente australiana, non era uno sfottò, fu la seguente: guardi, gli squali qui non attaccano gli uomini da 8 anni. E quindi, forte di questa consapevolezza e rassicurazione, io feci il bagno, però una cosa che in Italia non faresti mai: appena ti annunciano una mezza medusa, sei lì che cominci a spalmarti di milioni di prodotti. Squali, delfini, tramonti, conchiglie e esseri viventi antichi come il mondo. Tutto è magico nell'Australia di Miriam De Filippi. E per chiudere mi vuole parlare di un posto che alla magia aggiunge la poesia. In questa baia, però, dove puoi incontrare gli squali, ma dove incontri anche dei tramonti straordinari, perché sei all'ovest e quindi in qualche modo veramente il paesaggio, il cielo ruba al sole fino all'ultimo raggio prima che questo possa inabissarsi nell'oceano indiano. Incontri a Monkey Maya i delfini. Questa è un'esperienza strepitosa per i bambini, ma anche per gli adulti. Tutte le mattine alle 7 arrivano in questo luogo magico i delfini e tu puoi dare loro da mangiare, seguito però dai ranger. È uno spettacolo esclusivo, ma mi piace dire non in esclusiva, perché le possibilità anche di pernottare, di raggiungere questo luogo, sono alla portata economica veramente di tutti. C'è un range di possibilità, ma i delfini, questo spettacolo bellissimo che ti riempie l'anima, cioè ti ricarica per tutta la giornata, è aperto a tutti. E sempre veramente concentrata in questa zona, c'è una tra le spiagge più belle d'Australia, la Shell Beach, che è un concentrato di conchiglie accumulatosi in milioni di anni, ed è un bianco il cui bagliore è quasi insostenibile alcune volte. Però vedi questo, una spiaggia di conchiglie semplicemente, e l'azzurro più azzurro del mare. Detto così sembra un'immagine da cartolina, un po' artefatta, ma non lo è. Questa è veramente l'Australia. Così come poco più a sud ci sono gli stromatoliti, che sono gli strani esseri, sembrano degli aggregati quasi di alghe, e sono gli esseri più antichi viventi sulla Terra. E al momento dei saluti penso a Bill Bryson e al suo Una terra bruciata dal sole, un libro da mettere in valigia insieme a quello di Miriam, se si vuole partire per l'Australia. Una volta lasciata l'Australia, l'Australia cessa di esistere. L'Australia è in gran parte vuota e lontana, tanto lontana. La sua popolazione non è numerosa e di conseguenza il suo ruolo nel mondo è periferico. Non ha colpi di Stato, non esaurisce le riserve ittiche con una pesca dissennata, non finanzia despoti impresentabili, non produce cocaina in quantità imbarazzante, non usa la propria influenza in maniera arrogante e inappropriata. Ora Miriam De Filippi è in libreria con Mollo tutto e vado in Australia. Libero di scrivere edizioni. Native-born Peter Allen is truly Australia's greatest ambassador in the world of showbiz. Here is Peter with his own composition, a lyric that is very close to the heart of every Australian, wherever they may live. I've been to cities that never close down, like New York and Rio and all London town. But no matter how far or wide I roam, I still call Australia home. I'm always traveling and I love being free. And though it means leaving the sun and the sea, my heart's here waiting over the phone, 'cause I still call Australia home. All the sons and daughters spinning around the world, away from their family and friends. But as the world gets older and colder, it's good to know where your journey ends. And someday we'll all be together once more, when all of the ships come back to the shore. Then I realize one thing I've always known. I still call Australia home. Cause no matter how far or how wide I roam, I still call Australia, I still call Australia, I still call Australia home.